diverso rispetto al fatto di volerli scrivere, perché in particolare c'era un progetto e potevamo provare un po' a ragionare insieme. È stato un po' un'infarinatura di tante cose, vedo che qui no, ve l'hanno fatta. E la differenza magari rispetto a un operatore come me è che i prezzi sostanziali, io sono anche uno di quelli che dà i prezzi. Quando si comincia a passare dalla tecnologia ai soldi, le cose cambiano, perché poi bisogna capire la differenza. Quindi quando uno viene da voi e dice vorrei questo, quanto costa, quanto produce. Quindi, essendo che la cosa nel quale magari sono un po' più bravo, perché lo faccio proprio di lavoro, era la cosa un po' magari da approfondire, quindi le tecnologie, il loro costo, e che cosa significa andare a fare una cosa oppure un'altra. Però a parte questo, io avrei piacere che almeno due o tre concetti di tipo che ho già diciamo accennato ieri vi restassero veramente ben impressi, perché io vi ho parlato di tante cose anche abbastanza complesse sicuramente, insomma avete capito parte, sono cose che ci sono mesi in corso per capirle veramente. Però se io vi dovessi interrogare oggi per vedere le mie tre ore, se fosse stato qualche cosa, vorrei che tre cose fossero veramente restate con estrema chiarezza. E di cui una è questo discorso della potenza dell'energia, ora se mi corta la cosa, la penna ve lo faccio vedere. Potenza dell'energia, dovrebbe sapere per forza la differenza. Un'altra è le ore equivalenti. Questi, sapete, queste due cose, e la differenza fra certificati grigi, verdi e bianchi, io sono già contento, ho la sensazione di non aver perso tempo. A parte tutte le altre cose che abbiamo già nominato, comunque non è con piacere. Quindi sono concetti fondamentali, che sono quei concetti che poi li possono mettere in condizioni, nel momento in cui andate a leggere un documento, di capire cosa c'è scritto, bene, che cosa si parla. Quindi io ho diciamo delle slide sui certificati verdi e bianchi, che se le abbiamo entriamo dentro, ci perdiamo in un mondo incasinatissimo, complessissimo, e magari vado a finire che alla fine non capite proprio che cosa sono. Ok? È il motivo per cui non l'ho neanche aperto, poi casomai se li scorriamo, ma insomma c'è il rischio veramente di finire nel casino. Però si può capire. Qual è la differenza tra i certificati grigi, i certificati verdi, i certificati bianchi? Lo si capisce, come vi ho già accennato, semplicemente capendo perché sono stati creati, chi li ha creati e su quale leva, diciamo, ha utilizzato per farli diventare dei soggetti che valessero qualcosa, che entrassero nel comune linguaggio. Infatti, se siete appassionati degli rinnovabili, l'avete sentito queste parole. No? Certificati verdi, bianchi. Uno dice, ma che cosa sono? Allora, la prima cosa che dicevamo è questa della potenza. Io insisto perché io diciamo formo reti di commerciali e vi posso garantire che alla fine c'è una confusione pazzesca. Quindi la potenza, la cosa di un'altra lì, è una attitudine a fare una cosa, va bene? Non significa che la cosa la stiamo facendo, è un'attitudine. È come a dire, c'è una Ferrari qui che è una 500, la Ferrari più potente della 500. Sì, perché la Ferrari potrebbe fare più della 500, ma non è detto che lo faccia. Se la 500 cammina tutto il giorno, fa più strada di una Ferrari che cammina 3 secondi, va bene? Quindi c'è una relazione con la potenza si misura in watt. Allora sono i watt la potenza. Poi quando si dice che sono kilowatt, sono mille volte questi. C'è pochi discorsi, no? I watt kilowatt. Quindi quando uno dice a casa io ho 3 kilowatt, ha una potenza di 3 kW, la massima potenza che lui può prendere è 3 kW. Significa se è comprato una 600 invece di una Ferrari, la bandiera del 60W è una potenza di 60W. Vuol dire che, cioè, quello che può essere il 60W, non è un gigawatt, non produce energia, chiaro che c'è una differenza tra produzione, non c'è una riproduzione. Quando dico un impianto di 3 kW produce 3 kW. È una lampadina consumo. Sì, però sono, è la stessa cosa questa da due punti diversi. Ma questo deve consumare di meno, sempre a caso. Ma se la tengo spenta consuma di meno. Ma certo consuma 60W. Ma va bene anche questo. Vediamo un po' invece la relazione con l'energia. L'energia è questa cosa qui nel tempo. Ok? Quindi se la utilizzo questa cosa, che è la potenza, diventa energia. Come si fa? Io l'ho messo tanto, capito? Nonostante si trovi in via, guardate che non è una cosa. Tante cose sono troppo semplici. Questa si misura in watt per ora. Quindi per kilowatt per ora, per megawatt per ora, gigawatt, quello che vuoi. Ma come si fa a passare da questo a questo? È una cosa semplice. Se io prendo un oggetto qui, che facciamo conto è 3 kilowatt, ok, e lo faccio produrre per un'ora, ha prodotto 3 kilowatt. Se lo faccio produrre per 2 ore, ha prodotto 6 kilowatt. E semplicemente c'è il tempo di mezzo. Quindi questa è una disponibilità, ma questa è l'oggetto che è monetizzato, è questo. I chilometri che io faccio con la macchina, non quanto è potente la macchina. Ok? È fondamentale questo fatto. Quindi questi sono gli euro. Quando a me mi danno un incentivo, mi danno della roba, io dato su questo. Nessuno se ne frega di questo qui. È un fatto relativo questo qui. Io a casa mia potrei avere un impianto, una potenza disponibile di 1 MW, poi alla fine consumo sempre la stessa energia. Pago la stessa energia. Questa è una relazione fondamentale che non si può non conoscere. E questo ci dà anche l'introduzione per parlare delle ore equivalenti. Perché? Se io ho un impianto di 3 kW, ok, e questo impianto di produzione, diciamo, per un qualche motivo mi produce per tutto un anno, quindi in un anno abbiamo detto che ci sono 8.600 ore. Se produce per un anno, lui, capite che produce per 8, 24, facciamo circa 24.000 kilowattora. Non so se mi spiego. Quindi, con generatore, ma un qualsiasi tipo di impianto che lavora, per tutto il tempo produce una quantità di energia che è grossa, è veramente grossa. Un'abitazione normale che ha 3 kW a casa sua, ma sapete quanto consuma circa? Consuma circa 3.800 kWh, no? 3.000, 2.500. Questo consuma 10 volte di più. C'è un rapporto di differenza molto grosso. E questo introduce il concetto di ore equivalenti, perché se io ho fatto l'impianto fotovoltaico di 3 kW, io devo dire, ma ho capito che c'ho una potenzialità massima di 3 kW, però c'è la notte, c'è il giorno, ci sono le nuvole, piove, ma quanto produrrà veramente il fotovoltaico? E ci accorgiamo che il fotovoltaico, invece di produrre 8.600 ore, produce circa 1.200 ore equivalenti. Significa che io moltiplico questo 3 kW per 1.200 ore e ottengo questi impianti 3.600 kWh in un anno. Basta, quello è quello che può fare. Ok? Il fotovoltaico. L'eolico invece produce, almeno sui impianti di grossa taglia come quello di Montedera, che investe intorno al 2008, 2.800 ore equivalenti. Ecco, è più del doppio. Ok? È più del doppio. Le altre tecnologie invece vanno tutte a regime, perché tanto se metto l'ittico, tanto se metto la cogenerazione, che diceva il signore di prima, tanto se metto una di prima, e queste qui sono accese dalla mattina alla sera, almeno di un po' di manutenzione, la tengo ferma da casa, perché gli cambia un pochino qualcosa, diciamo che è ragionevole che produca circa 8.000, ed è vero che il numero ancora molto più grosso, è molto più grosso il numero dei 32, 8.000. Che macchina è l'ultima? Ma idraulico, cogenerazione da motore, i disegni che l'hanno fatto vedere, o una turbina a gas. Va bene. Però nel civile, diciamo, cioè nel civile. Ma perché io non li conoscevo, lui ha fatto delle macchine anche piuttosto piccole. Infatti nel mercato io ancora non ne sento parlare, può anche essere che ci sia una riduzione. Certamente ci sono dei limiti, perché per voler parlare di questi motori, infatti avevo un motore piccolo così, se un motore è piccolo così per mandare avanti un 4-5 appartamenti, lui è un motore che viaggia a 2000 giri al minuto almeno, significa è come una macchina, va abbastanza veloce, è come una macchina, e c'è il problema delle mani, ma te consuma. No, quando esce di cambio allora si rompono le palle, ah, vai da dopo, a 2000 giri. Un motore di un mega aperto va a 500 giri, è un motore marino, è quasi vero, fa tutto, camminerà a 10-20 anni, perché quello che sta su una nave. Non è quello che sta avendo una macchina. Quello che ha fatto vedere lui è il motore che avendo una macchina. Certo. È vero che oggi i motori sono belli, affidabili. Però. Non pensate che non è per forza di energia fossile per mandarla avanti. Ah beh certo, io sono motori, ci metto roba dentro. Allora che risolto? Che risolto? E gas. No, non è che non è risolto, scusa, attenzione. No. C'è anche il rischio che sono incentivati i motori. Perché lo Stato li incentiva? Perché il signore prima ha detto. Prende l'energia fossile. Ah certo. E c'è un rendimento del 30%. Perché butta via tutta l'acqua calda. Tu a casa tua non usi la corrente, usi l'acqua calda, per 30% lo porti a 60%, ed ecco il certificato bianco, in effetti, sarebbe un migliore utilizzo della risorsa. Però di questo se ne parla, ci vuole ancora un po', oltre al fatto che poi ti sei messa la macchina a mano, c'è un edificio, una piccola manutenzione, bisogna cambiare il motore, le fasce, i pistoni, i cilindri della macchina, e fate il motore. Non è che sia uno scherzo. Per l'eolico, per esempio, come si fa a fare conti di quanto produrrà? Mi sono comprato una pala di 60 kW. Come fa? La pala di 60 kW ha una sua curva di potenza, non entriamo nel dettaglio. In base alla velocità del vento, lei produce una certa potenza. Però poi a un certo punto, oltre, diciamo, a una... Fa così, fa. Questa è la velocità del vento, questa è la potenza. C'è una velocità del vento di ginocchio, facciamo di 3 metri al secondo, sotto 3 metri al secondo, non lavoro. Poi c'ha una roba qui, dove in verità la macchina lavora moltissimo su questa roba qui. Lavora quasi sempre qui. E qui invece c'è una potenza nominale, che facciamo magari per 60 kW. Qui poi c'è una velocità di breakdown, significa che io la macchina già la vedo se non esplode, fa troppo veloce. La potenza nominale della macchina è questa. A me non mi interessa neanche sapere se quella macchina lavorerà mai, quella potenza lavorerà, non mi interessa proprio. Quando il concettista mi ha detto, questa macchina in queste condizioni di vento, qui a Pisa, produrrà tanta energia, io so che corrisponde alle ore equivalenti, perché prendo le ore equivalenti alla potenza nominale e gli dico, è 60 kW, 60 kW per 2800, io ho ottenuto la produzione verde. Se poi l'ingegnere, diciamo, sta dicendo delle fesserie, non sarà 2800, 1600, 1500, qua, qui sembra che ho detto. Alla fine, è questo il numero. Cioè, rispetto di una banca, anche se non sa queste cose, non ne frega nulla lui. Mi chiede a me, dice, ma secondo il tuo progetto quante ore equivalenti fa? A lui gli basta solo quello. Poi ci hai messo la manutenzione, ci hai messo le perdite, ci hai messo i minuti da tempo, puoi mettere quello che vuoi. Quando io ho detto 2008, ho detto 2008. Moltiplico la potenza della macchina e hai ottenuto quanto realmente quella macchina lo vedrà. Si capisce però? È così. Significa potenza nominale della macchina per il numero di ore e da quante ore lavorerà in un anno. È la stessa storia del fotovoltaico, la potenza del fotovoltaico è 3 kW, c'è una potenza nominale di 3 kW, ma 3 kW devi farà a mezzogiorno a posto. Non so che ora quanto la luce è proprio, diciamo, ottimata, poi vabbè, tutto quello che gli pare, ma a me non mi interessa se vado ad uno e gli dico, ma senti un po', sto progetto che mi hai fatto, quante ore equivalenti c'è? 1200, 1300, 1150, 1100. Non mi interessa solo quello, è il risultato finale di tutti i ragionamenti. Andiamo a vedere i costi. I costi di vendita degli apparati produttivi è un po', è un costo sulla potenza, cioè capite bene che se mi compro la Ferrari costa 8, se mi compro la 500 costa 5, quindi è un prezzo che in grosso modo si può comprare tranquillamente a chilowatt. Poi è la stessa cosa. Quindi il fotovoltaico dici quando lo vendi a kilowatt? Cioè, se io voglio questa potenza, quanto soldi vuoi? A kilowatt, come si è detto l'altro giorno, eravamo partiti a 7.000, poi 6.000, poi 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Siamo arrivati a 2.000. Però un prezzo ragionevole è 3.000. Per un impianto almeno superiore. Sì, hai 30 a 40 kilowatt, se no poi di momento. 3.000. A kilowatt. 3.000 a kilowatt. È un kilowatt che produce 1200 ore. Sì. Vedete com'è? La storia comincia a tornare. Andiamo a vedere l'eolico. L'eolico è sulla piccola taglia, insomma, se si va a vedere delle macchine eoliche impianti, 25-50 kW, costa un po' di più. Come si sa, però di taglia, si parla su un mega, il costo è 1.000, 1.100. Fate dei pelindini freschi della Vesta, sì. Conosco molto bene, 1.100 in base se ci sono problemi con cestelli, cose varie, se lo devono assemblare a terra, va, o lo devono assemblare per aria, per esempio, ci sono due differenze. Differenza di un mega? No, no, tanto voi che generale. Per esempio su un kilowatt. Ecco, se è un megawatt è un milione, se è un kilowatt è un milione. No, insomma, se tanto. C'è giusto. È la stessa cosa. Mm. Io dico 1.000, è un kilowatt. Un kilowatt, certo. Dico un milione, è un megawatt. Ok. Costa 1.000. Tutte queste altre tecnologie, ognuna c'è il suo prezzo, però l'idraulica, che è quella incredibile, l'idraulica costa 1.000 anche lei. La cogenerazione, ma chi si sa, su questo caso qui si sa, forse 1.500, 2.000. Lasciamo perdere. Guardiamo l'idraulico, 1.000. L'idraulico costa 1.000 e produce 8.000. È una cosa spaventosa rispetto a questo, costa 3.000 e produce 1.200. No, vedete questi numeri, non è che fate voi essere voi che dovete mettere mano a porta fuori, ma dovete decidere di trafarsi. Questa è la storia. Ecco perché il fotovoltaico c'è un incentivo così, così alto, perché non l'avrebbe fatto mai nessuno. Poi c'è dei benefici, è chiaro, meno manutenzione. Ma anche l'idraulico non c'è una manutenzione, la centrale idraulica dura 100 anni, gira e produce l'ore, indistruttibile. Solo che l'Italia ha fatto tutto quello che poteva fare. Questo è un mondo difficile, il mercato è stato, diciamo, salutato. Quindi vedete la differenza. Se io faccio 1.000 euro per 8.000, ottengo 8 milioni. Se faccio 3.000 per 1.200, a che punto poi esce fuori? Esce un numero ridicolo. Esce... Spero che per metto 3, 6, più 2 zeri, 3 zeri, 30.000, 300.000. Vabbè, 3.000 per 1.000 sono circa 60.000. 3.000 e poi ci metto 3 zeri, sono 3 milioni. Se invece faccio 8.000 per 1.000, quanto vi fa? 8 milioni. No, No. Vuole fare il 60.000? Insomma, viene qualcosa come 10, 20, 30 volte meglio. Non stiamo parlando più di bricioline, stiamo parlando di numeri enormi da tutto questo punto di vista. La convenienza deve essere proporzionale al numero dei referenti e inversamente proporzionale al partito. Ma io se sì, cioè, io, certo, però no, che dico una cazzata. Ho dividato, sì, dà un po' l'idea della differenza tra le due tecnologie. È chiaro che preferisco questa che costa meno. Non si interessa. Il concetto l'avete capito, eh? Avete capito, questo è il vostro triplo e questo è il vostro terzo. Quindi queste sono cose un pochino da in effetti un pochino da tenere in conto, che rendono conto della differenza dell'incentivazione, sai che lo incentivano in tanto, questo invece magari lo incentivano molto di meno. Okay. Anche l'eolico con i certificati verdi. Lo Stato si è messo un po' al sicuro, ha detto sì, ho capito, io trovo l'incentivare, però per un incentivo al prezzo di mercato dei certificati verdi, non a tariffa fissa con il fotovoltaico. Il fotovoltaico costa 36 centesimi, 36 centesimi per 20 anni. Sull'eolico di bassa data non ti dice una cosa del genere, dice, quindi io ti do tot certificati verdi, poi anno che anno vai sul mercato e vedi quanto valgono questi certificati. Al limite io ti garantisco una soglia minima al di sotto della quale non scenderanno, no? E l'incentivazione è sempre di meno, cioè sull'eolico è molto molto di meno, non mi dire che non ho precedenza, però di aumentare il business, insomma, si possono mica dare tutti questi soldi. Avete qualche dubbio su queste questioni? Sempre sono le cose che non potete non sapere. Cioè, differenza tra potenza e energia e le ore equivalenti. Del tipo che se io mi interrogassi non sapreste la cosa, ti bocce così. Non è proprio pensato. Però ci andiamo lenti, ma insistiamo. E tu vedo come finisce. E questa la lasciamo perdere. Questo numero qui. Il fotovoltaico si fa tantissima confusione. Io ho detto che sono le ore equivalenti di una condizione dell'impianto fotovoltaico. In effetti, si può dire in un'altra maniera, sono i kilowattora prodotti per kilowatt di picco. Va bene? È la stessa cosa, ci vuole un po' per digerirlo, ma è la stessissima cosa. Cioè io ho un kilowatt di picco, un'unità. Quanti kilowattora mi produce in un anno? E un kilowatt di picco in un anno produce 1200 kilowattora. Per l'anno di tutte le lingue, quindi no. Non nessuno. Parlate sempre di fotovoltaico. Un kilowatt di picco, che significa 8 meno quadrati di pannelli, producono 1200 kilowattora. Quindi meglio ci si fa in Sicilia. Sì, per me è questo. Se ne compro 3 kilowattora, ho prodotto 3.600, che è più o meno il fabbisogno di una migliore. Questa è la storia. Capite che se l'avessi messo una centrale idraulica a casa mia per fare quella potenza lì mi bastava 500 watt, diciamo, perché lo vuole sempre, no? E questa qui poi io penso che vada bene questo discorso. Ora bisogna vedere solo la differenza tra certificati. Altro concetto che dovete conoscere è necessario, diciamo. Allora abbiamo detto grigi, poi verdi. E poi gli altri. Sono nati in momenti diversi, eh? Sono nati prima questi, poi sono nati questi, e oggi stanno nascendo questi. come hanno fatto a crearli? Come è stato possibile creare questi certificati? Io ho un pezzo di carta, ho fatto un senso otto. Se non è una cosa semplice, se io faccio un pezzo di carta lì vale nulla. Vediamo l'ultimo, il grigio, perché è molto molto molto molto attuale. È legato all'emission trading, mercato del carbonio, emission trading. Parola che non vedi un giornale, no? Oggi c'è scritto anche tutti, anzi c'è un altro articolo anche oggi. Allora, l'emission trading, che significa che a livello di comunità europea, facciamo a livello di comunità europea, si mettono tutti d'accordo, come vedete, non si mettono d'accordo, perché se le leggenze sono incredibili, che è un casino. Supponiamo che si mettono d'accordo e dicono, allora noi vogliamo ridurre di tot l'emissione di carbonio nell'atmosfera. E noi ci mettiamo d'accordo. L'Italia deve entro questa data fare una riduzione, che è questa, che aperta circa carbonio, che fa questa riduzione. La Francia deve fare un'altra, lì dicono un tot e alla fine si mettono d'accordo. L'Italia, l'India, se si mette d'accordo, l'America, tutto il mondo, è un problema globale, si mettono d'accordo. Come si fa a produrre un valore questo accordo? È semplice, si fa traducendo una multa. Va bene? Anche il protocollo di Kyoto 20-20-20, dentro c'ha il germe di questo concetto, che dice, c'è solo scritto questo, nel 2020 tu devi fare il 20% delle energie rinnovabili, devi fare un risparmio del 20% e poi con le estensioni attuali devi ridurre il carbonio che emetti, tu un tot che stanno ancora discutendo, se non lo riduci che succede? Multa alcuni miliardi di euro. E il gioco è fatto, quando c'è questo c'è già tutto, se ti dici solo 3.100.000. Allora il giochino è fatto perché la multa sono tot soldi, è uguale x soldi, x soldi, tot carboni, abbiamo capito quanto va. Vale. Queste sono strategie micidiali, queste cose erano fino ad ultimi minuti. Era l'unico modo per farla passare, soldi, carboni, abbiamo stabilito quanto vale una tonnellata di carboni non emessa. A quel punto fatti certificare, io. Poi lo Stato dice, vabbè, ora io ho sta multa, a chi la faccio pagare? Lo Stato va lì e dice, tu sei la firma, ma chi è buono che produci tutta sta roba? Te sei quest'altro, pure tu, allora te ti tocca questa, te ti tocca quest'altro, perché mi impone a queste aziende, cioè a me questo energivo, se mi mangiano, non viene via di là a casa mia, no? Mi impone a tutti questi signori la loro pezzettino di multa, e quindi dice, te devi fare questo. Tu devi fare questo e poi devi fare questo. E qui nasce la grande polemica, ci sono i cinesi di recente, dicevo, ma io scusa, se io non mi metto una tassa del genere, io non posso più produrre, vado in difficoltà. I cinesi dicono, tu avete inquinato 300 anni, ora c'è disciplinato a noi. Posta, scoppia. Gli americani che hanno avuto delle posizioni prima contrarie, ora favorevoli, insomma, tutto un mondo complicato perché è legato alla tecnologia. È legato molto alla tecnologia, alla tipologia di tecnologia. Anche perché poi si produce in Cina quello che poi produce. Ridurre l'energia qui si chiama. Tutta una macchietta. Obama è tornato anche in Asia, ma solo come dopo. Comunque vedremo quello che succede. Fatto è che la regola è questa, e quindi questo è il mercato. È chiaro che il mercato perché è un mercato, io non ho fatto una divisione, ho detto allora i prezzi sono questi. No, è un mercato perché? Perché la Fiat, invece di andarsene a comprare quei certificati da me, privato, che ho fatto un risparmio, potrebbe decidere di fare un intervento e produrre da sopra. Allora il mio certificato, i miei clienti, che mi sono lanciato in questa avventura, per risparmiare cose, e ci piano di me. Non so se capite dove era la fregatura. Non è fisso il prezzo. Se io dividevo e dicevo allora, diciamo così, l'Italia deve ridurre 100 tonnellate, la multa è 1000 euro, hai detto subito, va bene, allora 10 euro a tonnellata. Ok, questo è il valore di riduzione. Io privato faccio un intervento X, e dico guarda, io sto facendo questo intervento, riduco una tonnellata, vuole 10 euro. Non me le dà lo Stato. Lo Stato non me li dà perché non me li può garantire. Dice, ma io che ne so se il mercato fra 3 anni è quello. Se piglia che la Fiat ha deciso di fare un investimento proprio, ok? E riduce tutto, la Fiat non verrà a comprare quei certificati da me. È un mercato. Non so se ci avviciniamo al problema, è un mercato. Cioè, prima di provvedimenti la Fiat è solo diciamo può pagare la multa. La multa può pagare a me, la Fiat può fare. Caccia dei soldi, fa un investimento, cambia i suoi apparecchi dentro e produce un cielo, sono fatti su. È apposta, non deve pagare a nessuno. Se non lo fa, si affaccia da qualche parte, dice ma qualcuno c'ha dei certificati, allora neanche io mi prendo i certificati e ti do soldi. Perché? Perché il certificato che si comprerebbe la Fiat è comunque inferiore alla multa che dovrebbe pagare, se no che lo fa fare? Ecco che è il mercato. La multa è la soglia massima. Tutti faranno in modo di pagare di meno di quella multa, se no che lo fanno a fare, scusa. Cioè allora pago la multa e non facciamo nulla, non è meglio. Non si dà la multa, paghiamo la multa e continuiamo tutti quanti. Funzionando così con le multe? Se viene multato lo Stato, davvero lo Stato italiano fa pagare una quota da Fiat a cui dà incentivi poi? Sì, funziona così. In buona tutte le parti la protezione, una cosa del genere. Poi dà incentivi. Ora guardiamo in maniera... Sì, sì. Diciamo che lo Stato può fare quello che vuole, può incentivare, si sta a una parte, però la multa la paga la comunità europea. Sì, penso. E quindi farà del tutto per non pagare. La Fiat, la multa la paga lo Stato e farà del tutto per non pagarla. Eccoci. E tutto non si vede proprio. Significa che alla fine mi mettono a me in condizioni di privato di decidere di andare a fare un intervento in Romania, dove c'è una discarica all'aperto, terribile, no, in Albania, perché dove abbiamo scoperto che gli danno anche fuoco, perché non ho capito bene che funziona. Quindi è il barame, un progetto di CDM, un valore di tipo 300.000 euro, vai lì, e gli ha risolto un problema loro che è enorme. Gli stessi soldi che danno ci fai nulla. Vabbè, 100.000 euro, ci facciamo niente. Quindi io risolvo un problema mega galattico. Io faccio un progetto e dico, guardate, che io ho avuto una riduzione micidiale di cellulare. E lo Stato lì mi dà un stoffo di certificati. Che ogni anno sono fruttiferi. Quel certificato ogni anno stacca un valore. Un buono fruttifero. Dice, allora, te lo dice, tutti i certificati, quest'anno i certificati valgono 10, l'anno prossimo magari valgono 9, il mercato, sai, cambia. Si capisce? Sì, sì, perfettamente. Ma chi l'ha inventato i certificati grigi? Certamente non lo so. I verdi, i bianchi italiani. Sì, sì. I verdi non credo, i grigi sono un ragionamento a livello globale proprio. Però è stato... È proprio un modo di ragionare che è stato intelligente, è stato quello di, da una parte di premiare chi fa certe cose, da un'altra parte di multare chi fa. E quindi è un do tutte test che da i suoi risultati, che significa io vado in Albania, faccio quel lavoro, faccio un investimento, ho un tornaconto perché se faccio quell'attività in Albania, gli albanesi mi danno dei soldi. Sì, però continua a inquinare in Italia, è molto semplice. Ah, eh sì, no, per l'inquinamento non cambia molto, l'inquinamento è globale. Però se la criminalità prende le mega discariche in Italia. In Italia? Magari. Io riprendo un bel certificato grigio perché sono stato... Ah, ma io sono stato in Albania, però in Italia continua a fare quel cavolo mi pare. Ma certo è immorale, se me il certificato grigio è immorale. Sarà... vorrà a livello di la cosa estremamente intelligente perché non è lo Stato che può cacciare i soldi per fare le cose, questo è un meccanismo, lo Stato poverino, sono lì che devono fare. Questi meccanismi servono per invogliare i capitali privati a fare le cose. Io ora, se vado a fare questa cosa in Albania, uno ci guadagno perché faccio una cosa lì e lì mi pagheranno per la mia opera, magari certo. In una certa maniera, magari metto una tassa a tutti quelli dei paesi di Albarane, questi qui mi pagano il lavoro che ho fatto sull'immondizia, loro fanno quello che possono. Però io riconoscimento certo, che lo Stato italiano mi ridà con certezza, guarda, però io dico 100.000 euro l'anno per questa cosa che è fatta, quindi vi faccio capire anche meglio, l'opera di quella discarica, ma queste cose sono svilite, sono dei casi di progetti, costava 300.000 euro, è una sciocchezza. Capite che io, di questi 300.000 euro, gli davo circa 80.000 euro l'anno solo di certificati. Permettete che come investitore la cosa mi può cominciare a interessare, anche se poi come stanno l'albanese magari vedrai che non mi pagano, poi io qua faccio un investimento. Comunque no, significa che hai due delle certezze, quindi stimolate. Quindi cosa è 15 o 12? I tedeschi hanno fatto degli enormi investimenti. Sì, funziona così questo mondo, va bene? Io non dico che dovete saper fare conti, non so fare neanche io, però che cosa sono i certificati grigi? I verdi sono identici. Sono identici, anche qui. Qui però siamo nell'ambito del protocollo di Kyoto, quindi di verdi, no? Tali verdi, qualcuno gli ha detto all'Italia, c'è te, nel 2020, deve aver prodotto il 20% da energie rinnovabili. Se non è prodotto, multa. È stata semplice questo punto di ragionamento, no? Allora, come avevo già detto anche ieri, l'Italia cosa fa? Da chi va? Ma può andare solo da personaggi che hanno la potenzialità per fare questo. E sono i produttori di energia elettrica in Italia, sono pochi ed enormi, come Enel, produzione e come altri, pochi grossi soggetti. E io dico, cari miei, cioè voi siete quelli che producono il 100% dell'energia elettrica in Italia, ma producono anche grandissima. Allora io ora vi dico a voi che voi mi producete una percentuale di energia rinnovabile. Ogni anno magari non mi fate il 3-4% in più, giusto per rispecchi. Ok? E questa è la cosa. Se non lo fa, multa. Allora vedete che Enel comincia a mettere i pannelli fotovoltaici sulle cabine. Enel si è comprato in tese e fa eolico. Enel va a fare l'impianto eolico in Albania con un cavo sottomarino che porta l'energia in Italia, cose spettacolari, già diciamo ha provato 60 metri, quindi Enel comincia a fare tutte queste cose, cioè cerca di non pagare quella multa, normale, no? Poi lo fanno anche gli altri, poi che cosa significa? Non è detto che loro riescano a fare tutto questo, ovviamente non lo possono fare tutto, questo è certo, perché comunque hanno altri business, altre cose. E allora nasce il certificato, apriamo questa opportunità a tutti. Io, investitore, indiano in questo caso, che lo conosco io, e in Italia diciamo che io vorrei fare un parco di 10 megawatt. Parco di 10 megawatt di eolico, e pagate certificati verdi, si sa benissimo quanti certificati verdi vi avrà in base alla produzione che lui fa, lui prenderà un certo numero di certificati verdi. Questi certificati verdi vanno in questo mercato, ma gli acquirenti di questo mercato sono questi signori qui, ok? Quindi la fregatura che il prezzo lo fanno anno per anno, perché la loro richiesta potrebbe essere inferiore o superiore, in base a quanto hanno autoprodotto. Questa è una cosa che dal punto di vista degli investimenti non è granché bella, perché l'investitore dice ma io insomma, devo cacciare 10 milioni e non so l'anno prossimo quanti soldi metti, no? Non è una cosa tanto bellina. Allora insomma, qui hanno messo lo Stato, si è un po' esposto, ha detto guarda, secondo noi il certificato verde vale 90 euro a certificato verde, però io ti garantisco magari che non scenderà sotto 70, se scende sotto 70 te lo può pulire, infatti, cioè, no, questo è un altro. Esatto. E quindi E qua il valore è proporzionale alla quantità di energia prodotta o alla quantità di CO2 non emessa? No, è qui scritto nel CO2. Okay. Questo è il CO2. Okay. Questi sono kilowattora. Infatti uno è il guina meno, il manchi grigi anche dall'idea, il colore anche grigi. No, posizione da prendere in mano, la cosa più bella che ci possa essere sulle energie. Stessa storia sui bianchi. Identico concetto, lo Stato con chi ho 20-20-20 doveva anche ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica del 20%, quindi doveva costringere qualcuno a pagare, a realizzare queste cose. E siamo al discorso, ma a chi costringiamo? Qui ci voleva un soggetto che avesse, diciamo, la capacità di entrare proprio nel dettaglio, cioè di entrare in maniera diffusa nella società. Perché il risparmio energetico lo fanno le grandi aziende, pure loro, però il vero utente finale del risparmio energetico è proprio il cittadino, siamo noi, cioè siamo noi quelli che cambiano la lampadina e stanno a terra frigorifera quando non regolata, noi che con una cultura, con una certa attenzione, potremo con una certa facilità anche, diciamoci, raggiungere un 20% di risparmio. È proprio la famiglia. Ma chi è che arriva alla famiglia? Lo spiego io, sono io, statici. Quello che raggiunge le famiglie è proprio il distributore. Qui sono stati abbastanza furbi, insomma, c'è che dire. Perché il distributore? Perché il distributore ha milioni di clienti. Quindi il distributore è Toscana Gas, è un distributore. È la distribuzione, è un distributore. Anzi, è stato proprio definito con precisione la qualifica di distributore. È il soggetto che ha, non mi ricordo quanti, più di 40.000 clienti, un numero così. Allora io ti dico a te, scusa, ma tu c'hai 40.000 clienti, cioè tu hai bussato alla porta di 40.000 persone, questi 40.000 ogni mese ti pagano una fattura, una roba, c'è una relazione con questi, no? Vuoi fare qualcosa se vuoi? Infatti, lampadine, regalate, e loro sarebbero stramotivati da andare a casa la gente e dire guarda, ma ora non cambiamo questi frigoriferi. Abbiamo comprato uno stock, questa è una cosa del genere. Distributori, e da che i distributori non ce la diciamo non ce la potevano fare, ci hanno inserito a Tedesco. Allora guarda, facciamo che anche tutte la tipologia di società che decidono di essere Tedesco possono fare questo. Allora chi è Maesco? Maesco potrebbe essere un normalissimo installatore elettrico che installa caldaie, sistemi di raffrescamento. Sei uno abbastanza sveglio, dice cazzo, io mi trasformo in una ESCO. Mi trasformo in una ESCO, faccio un accordo con un produttore di caldaie a condensazione. Normalmente la caldaia a condensazione costa 1.200 euro. Io faccio un accordo con questo perché io sono uno che pensa da grande e magari a me mi rimette a 1.000. Ok? La vado a proporre al cliente e magari gliela installa e tutto io ci guadagno zero. Gliela installa a pezzo di costo, costa 1.000, io guarda ci metto giusto, mi pare giusto la mano d'opera, il disturbo di tutta sta questione qui. Lo stesso vale anche verso la tecnica. E io te la installo, vendi la tecnica, guarda, ho una roba, ma che è un'esagerazione, ma che andare è esagerata, la pago a un prezzo terribile, te la installo gratis. Questa è la ESCO. Cioè, questo c'è scelta, secondo me è scelta. E c'è l'incentivo che prende i certificati bianchi per l'operazione. E quindi per 12 anni prendi una cifra anche piccola, ma per 12 anni non esistono oggi strutture che ti garantiscono i soldi per 12-20 anni. Esistono le assicurazioni con la gente, ma poi l'hanno stroncata. Non esiste un lavoro nel quale dici guarda tu, mi dai poco ma me lo dai per tantissimi anni. Questi sono processi fondanti che potrebbero creare mercati e sviluppo, perché non è che così è successo, non è successo per ignoranza, per non conoscenza. i sistemi, le regole ci sono. Quindi questo installatore qui si potrebbe inventare un pianeta, in quale deciso certificare di meno, lui deve stare addirittura. Poi magari faccio la manutenzione, devo dare a gas, metti una prima, quindi faccio una lezione un po' più caruccia. E magari capito che 20 anni mi faccio un sacco di clienti finito, perché chiaramente arrivo sul cliente finale con un prezzo, nessuno vuole vedere il prezzo. Perché io ho un'altra vista. E qual è l'obiettivo? Lui ha usato, mi ha messo una cartella a condensazione di cui sono magari bene, cioè il 40% meno di quella schifezza e ce l'ho qui. Tanto se viste vanno bene anche sui termosifoni tradizionali, si stanno regolate bene. Funzionano bene sempre le case a condensazione. Lo stesso per gli affrescamenti, lo stesso per un frigorifero, per i lupi, per qualsiasi cosa. Quindi questo è un modo di vedere la ESCO, quindi non è solo un soggetto che finanzia proprie spese o cose di altri. È un soggetto preponente che può dar vita dei mercati. Come mai, oddio, come mai non sono così sviluppate le ESCO? Perché non c'è la prima volta. Però come mai non sono sviluppate così tanto in Italia? Non sono sviluppate perché... E da quando è possibile fare una ESCO in Italia, più o meno? Ma in certo senso da sempre, perché da quando lo fanno gli americani non esiste una normativa. Non esiste una normativa, è solo questo concetto di certificazione. Sì, è l'impostazione dell'impresa, sì, è diversa. È la concezione, sì. È la presenza del certificato bianco che permette questo. Non esiste uno statuto di una ESCO che è una cosa. Certo, e la certificati bianchi da quant'è che ci sono? Più o meno? Ci sono anche da 4-5 anni. Ecco, ci sono. Diciamo che ignoranza. L'hanno inventato gli italiani, dicevo, li stanno copiando, Stati Uniti, magari da loro funzioneranno per noi, però sono cose, vedete, fatto di cultura. Sono con certificati verdi che vengono, diciamo, erogati anche se l'interpreta, anziché l'Italia che ha fatto la nazione. Perché? No, verdi luce basta. È perché c'è l'inquinamento. Sono verdi, secondo me, hanno una valenza... Nazionale, sì. Come anche i bianchi, cioè questo è un obbligo che lo Stato deve fare. Anche questo è un obbligo dello Stato, però perché l'hanno esteso all'esterno? L'hanno esteso all'esterno perché, come l'ho accennato, ottenere una riduzione di un certo tipo in Svizzera, dove sono già tutti precisi di un bonus, c'hanno tutto, e costa un sacco di soldi. Ora con quei soldi lì, se li portano in Albania, ottengono una riduzione che è 10 volte più grossa. A livello globale, a noi ci interessa quanto di luce, non che l'hai fatto in Svizzera intervento, me ne frega a me, se tu scusi in Svizzera con 300.000 euro, in Svizzera fai un appartamento, con 300.000 euro in Albania elimini una discarica a cielo aperto bruciata, scusa, è grossa la differenza, il sistema nasce per quello, non è questione di, ottenere il massimo con il minimo dei soldi, è un grande sistema. Quindi certificati bianchi per 12 anni. Ora mi sembra 12 anni il prosciutto è scritto con precisione sulla 12. Io dico sempre mi sembra, perché ragazzi, se uno è ricato. Se uno si fa 10 megawatt di fotovoltaico in Albania, no, non c'è un certificato. No. No, no, cioè, anche se poi in realtà diminuisce le cifre. Va visto, va sempre visto, va visto perché io potrei. E fare un intervento, magari faccio una centrale idraulica, dimostro che quella tipologia di intervento riduce la produzione di CO2, perché non viene utilizzata una macchina a carbone, io il diritto lo posso avere, cioè dipende da come è impostato. Immagino che dipende da come è impostato. Ora, no, non sono proprio un esperto anche di questo, però è questo, chiaramente questo si sposa forte con l'immondizia, con queste cose qui, con l'inquinamento quello vero. Allora, avete capito qual è la differenza tra le scelte di vinci, verdi e bianchi? Sì. Un'idea? Grazie. Anche questo a chi lo va a quello bianco? Sì. Potremmo andare a di tipo di... Sì. Questa è però una serie storica dei consumi precedenti, come funziona? No, non va a kilowatt. Non va a kilowatt perché non è legato per forza alla produzione, va a tempo. nessuno a che fare col petrolio, non abbiamo mai visto il petrolio. Però qualsiasi intervento che si fa ha un equivalente per loro, significa che se io cambio queste lampadine e ne metto altre che consumano di meno, ho avuto una riduzione in 1 kW di assorbimento, significa a casa mia consumo 3.000 kWh da un altro, dopo ne consumo 2.5, ho risparmiato 500 kWh. Esiste una tabellina che mi dice, guarda che in Italia per produrre 500 kWh oggi, l'equivalente di petrolio che verrà utilizzato nostro mix energetico italiano è tutto. Questo significa che un tetto sono circa 50 lampadine. Però questo non è solo la lampadina, questo è anche termico. Se la faccio una cardata, consumo più di tutto quel gas, non è equivalente qui. Era più generale questo qui. Certo. Questo invece è molto prezioso. La cosa che fa tempo è che la formazione non più che tempo non efficiente. Può dipendere anche dall'efficienza della produzione di elettrica in Italia. Ma conto, se io dico che in Italia per fare 1000 kWh ci vuole un tempo, ci vuole un tempo, perché tot l'hanno fatta col carbone, tot l'hanno fatta col petrolio, tot l'hanno fatta col gas, cioè questo lo sappiamo. Ma se la torta di... abbiamo di produzione nostra. Mix energetico, l'Enea mi dice qual è la... C'è in Europa un chilowatt può essere un diverso. Sì, potrebbe essere. O se tutti la facessero pulita, perché ti dovrei dire, non dico niente, perché c'è tutta pulita. Poi ci vedono dei tre cose che ti arriviamo. E il computo preciso chi lo fa? L'Enea ha delle tabelle stranote. I progetti sono o di tipo standard, quindi va già accennato, tipo standard significa che una lampadina, tot elettrica, c'è pochi discorsi, ti conto le lampadine. Però se poi va la Fiat lì e dice attenzione, faccio un progetto, cambio la cardaia, cambio i tubi che vanno da sopra, passano di sotto, prima li preriscaldo, poi riscaldo, poi raffreddo, poi faccio e ti dice, noi abbiamo fatto questo progetto, i nostri ingegneri hanno detto che abbiamo questo risparmio, quello dell'Enea se vuole che se una vuole te lo studia e dirà sì è vero, no, non è vero. Se dice sì è vero, lui allora ha più diritto. Quindi in effetti, adesso possono fare anche questo, questo me l'hanno chiesto. C'è una società che si chiama TurboTech, che fa diciamo trattamento di turbine tramite un sistema di pallinatura per diventare più forte, società leader a livello europeo, consuma circa 5 MW di potenza disponibile. Di consuma alcuni milioni di euro di corrente all'anno e mi ha detto io guarda vorrei fare interventi di miglioramento energetico, quindi forse se riusciamo gli prendiamo una consulenza perché 15.000 euro stiamo lì una settimana a bestemmiarsi dentro le sue macchine attirando dei macchinari che misurano il consumo, se metto dei sensori in una grossa azienda, uno qua, un altro là, che in realtà segnano l'andamento del consumo, poi in maniera creativa posso cercare di capire ma da dove viene questo consumo, quello è uno, va bene, caccia 2 milioni di potenti e poi va a capire da dove veramente arriva il consumo. Un'analisi del genere, fatta in una certa maniera, può identificare dei grossi spreco che possono essere di corrente elettrica, ma possono essere anche termici. E se c'è la capacità indica una soluzione. E se c'è la capacità di lo fa pure. Se io faccio il certificato, io faccio il certificato professore, no? E voglio diventare maestro. No. È molto semplice. Basta che sei almeno un essere vero, eh? Poi fai una modifica di questo punto, è molto semplice e diventa maestro. Una cosa di caso io dopo che ci ho lavorato una vita a studiare documenti per capire che era una strozzata. Veramente adesso mi dice io sono. Essere una società di capitale. Non c'è per essere lì. No, sono subito. No. Però parte dello studiare, insomma, sono cose. Che parliamo? Sì, a posto. A posto? A posto. Va bene, ok, Rosino.